guarda, guarda il mio talento, che bel colpo seppe far. Quale trionfo, qual trionfo inaspettato, me felice, senza fiato, senza fiato. Ora muoion dal contento, dal contento. Guarda, guarda, guarda, guarda il mio talento. Guarda, guarda il mio talento, che bel colpo seppe far. Zitti, zitti, piano, piano, per la scala del balcone, presto andiamo via di qua. Zitti, zitti, piano, piano, zitti.